America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero. Continuano, devo dire, in America le polemiche sulla questione saudita, chiamiamola così. Ne ho parlato nei programmi degli ultimi due giorni, le rivelazioni prima di Zacharias Moussaoui, poi rivelazioni del New York Times e poi infine la grande curiosità, e questa è la storia di oggi, per queste 28 pagine che fanno parte del rapporto di 832 pagine della commissione sull'attacco terroristico dell'11 settembre, 28 pagine che non sono state rese pubbliche. Cosa contengono queste 28 pagine? Beh, contengono una descrizione del rapporto fra Al-Qaeda e l'Arabia Saudita. Ma oggi non voglio più parlarvi di questo tema, voglio parlarvi di un altro tema che ha a che fare con la salute. Sentiamo. Now, there are more than 100 confirmed cases of the measles in the US right now, and the CDC says it's very concerned about a possible outbreak. Il morbillo, il ritorno del morbillo negli Stati Uniti è una, diciamo che una preoccupante epidemia. Ci sono stati 600 casi in vari stati, si calcola che a questo punto siamo arrivati forse addirittura a 1000 casi in tutti gli Stati Uniti. C'è stato un focolaio che è partito da Disneyland, sono casi segnalati nel 2015. Perché? Beh, perché alcuni anni fa una gran quantità di genitori hanno deciso di non vaccinare i loro figli con il vaccino contro il morbillo. Perché? Perché c'erano una serie di leggende metropolitane secondo cui il vaccino del morbillo avrebbe potuto portare all'autismo, avrebbe potuto portare a un ritardo dello sviluppo mentale dei figli e così via, così via. Sappiamo che queste leggende, tra virgolette, si alimentano da sole perché non ci sono davvero delle prove scientifiche che dimostrano che ci siano dei pericoli di questo genere, almeno non sono stati rilevati. Eppure, che cosa è successo? Che molti genitori hanno deciso di non iniettare il vaccino a questi figli. Ecco, la questione non è soltanto scientifica, è anche politica, e c'è da dire che una buona parte di coloro che resistono a questo vaccino, il vaccino MMR, cioè Measles, Mumps and Rubella, cioè parotite, rosolia, oltre al morbillo, e sono persone che provengono dalla destra, dal Partito Repubblicano. C'è un vero e proprio movimento fra queste persone che sono scettiche nei confronti della scienza, ed è in quel bacino di persone che ci sono queste resistenze. Ci sono state delle resistenze anche in gruppi particolari, per esempio gli Amish, ma si trattava appunto di casi assolutamente isolati. Invece adesso è diventato un problema nazionale, al punto che sono intervenuti in materia alcuni dei più importanti politici. E secondo me è molto importante invece ascoltare un messaggio dalla scienza, da una scienziata importante che ho intervistato altre volte qui su America 24, perché non vorrei che anche in Italia si facesse strada l'idea che forse questi vaccini, come dire, presentano dei problemi. Con me ai microfoni di America 24, Eva Feldman, che è uno dei più grandi scienziati americani, ricercatori americani, e il direttore dell'Alfred Tauber Medical Research Institute della University of Michigan, professore di neurologia. Insomma, è una persona che sta facendo una ricerca avanzatissima. Buongiorno Eva. Hello Eva. Hi, how are you? Very well indeed, thank you. So Eva, what is your reaction to such a worry by some people that do not want to get vaccines? Qual è la tua reazione, la sua reazione a questa gente che non vuole avere i vaccini? Well, it's certainly not medically wise at all. Vaccines are non è certamente saggio dal punto di vista medico. I vaccini sono essenziali, rappresentano una componente molto importante per gli sforzi verso la sanità pubblica ed è davvero poco saggio non vaccinarsi o non vaccinare i propri figli. Noi come istituto incoraggiamo tutti quanti ad essere vaccinati e a vaccinare i propri figli. All individuals to be vaccinated and to vaccinate their children. Yes, but people, some people worry. They think that this will weaken, you know, the physique of their children. Alcune persone si preoccupano, penso che possa indebolire in futuro il fisico dei loro bambini. How do we fight those worries? Come combattiamo? Well, we really need to. It's very important that we educate people. I think the most. Beh, abbiamo davvero bisogno di educare le persone. Penso che la parte più importante sia evidenziare che l'idea secondo cui il vaccino è collegato all'autismo sia completamente falsa. I precedenti studi a riguardo sono completamente da disapprovare ed è totalmente da escludere il legame tra le due cose. E la questione più importante in questo momento è educare le persone circa l'importanza del vaccino, lasciando perdere le falsità che distolgono le persone dal fare la cosa giusta. Steer people away from making the right decision. And what are other, you know, I remember this about autism, but there are, in fact, in Italy, some people refused to have the flu vaccine because they thought that some people died of it. Alcune persone in Italia hanno persino rinunciato al vaccino per l'influenza perché pensavano che si potesse morire. So are there other examples? Ci sono altri esempi? Certamente, ci sono diversi esempi di persone che credono che vaccini come questo o quello per il morbillo provochino l'autismo, possano causare depressione, un cambiamento di personalità, e lo pensano senza nessuna prova a sostegno. Ora, è capitato che un piccolo numero di persone che hanno ricevuto il vaccino anti-influenzale abbiano avuto debolezza o stanchezza anche a livello del sistema nervoso e abbiano avuto un paio di settimane in cui tale stanchezza abbia inciso soprattutto a livello motorio. Ma ciò accade in percentuale molto bassa e la raccomandazione del governo e la nostra come istituto, sempre per salvaguardare la salute pubblica, è che tutti ricevano il vaccino anti-influenzale. So, the message, il messaggio da Eva Feldman è: fatevi i vaccini, fateli fare ai vostri figli, get your vaccines, perché è fondamentale, è importante, dobbiamo guardare avanti e non guardare indietro. E guardando avanti vorrei chiedere ad Eva Feldman così un rapido sguardo d'orizzonte di dove sta andando la sua ricerca, perché è ovvio che nel momento in cui cominciamo a sospettare che dietro dei vaccini o degli avanzamenti medici possono esserci poi delle conseguenze controproducenti, beh, saremmo fermi all'età della pietra, non avremmo tutte le medicine che hanno salvato una gran quantità di gente. Pensate all'antipolio, pensate insomma a tutto quello che è successo dal punto di vista della scienza medica negli ultimi 50-100 anni, scienza medica che continua ad avanzare. The New Frontiers, you had a research center that is operating at the New Frontiers. And yes, we are, and I think the New Frontiers are so important. Sì, lo stiamo facendo nel nostro centro. Credo che le nuove frontiere siano molto importanti. Al momento stiamo portando avanti studi su oltre 50 diversi farmaci che sperimentiamo su diverse malattie. È molto importante avere una mente aperta e proseguire nella ricerca medica contro le malattie infettive. I vaccini sono solo un esempio di come dobbiamo continuare ad agire in maniera intelligente, facendo la cosa giusta dal punto di vista medico. Keep an open mind and do the right medical thing. Do you think that sometimes in the future we will solve some of the major issues that we have, like cancer or that we get? È la nostra speranza. Dei 50 farmaci in studio, quasi la metà sono destinati alle tipologie peggiori di cancro, in particolare al cancro al seno. Siamo molto interessati allo studio del morbo di Alzheimer e del morbo di Lou Gehrig, conosciuto come SLA. Quindi abbiamo molte nuove sperimentazioni innovative e siamo fiduciosi che si possano fare passi importanti nella cura di malattie ad oggi considerate incurabili. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre alla nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho scelto questa canzone dei Bleachers, I Want to Get Better, voglio star meglio, molto in tema con quello di cui abbiamo parlato oggi naturalmente, dedicata soprattutto a coloro che non hanno voluto il vaccino, magari per l'influenza, e oggi non stanno troppo bene. I Want to Get Better, voglio star meglio, Day Bleacher. I traced the faith to a broken down television and put on the weather. Then I've trained myself to give up on the past, cause I've frozen time between hearses and caskets. Lost control when I panicked at the acid test. I wanna get better. While my friends were getting high and chasing girls down Parkway lines, I was losing my mind because the love, the love, the love, the love, the love that I gave wasted on a night. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going! America 24.